Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi parliamo dello scrittore americano Paul Auster. Suoi sono romanzi come Trilogia di New York, Nel paese delle ultime cose, Leviatano, Mister Vertigo, Invisibile e l'ultimo Sunset Park. Lara Ricci l'ha intervistato. Troverete l'intervista integrale a Paul Auster domani sul domenicale del Sole 24 Ore. Sentiamo. Nel suo ultimo libro, Sunset Park, uno dei personaggi, l'editore Morris Heller, scrive: «Gli scrittori non devono mai parlare con i giornalisti. L'intervista è una forma letteraria imbastardita che non serve a nessun altro obiettivo eccetto quello di semplificare ciò che non deve essere mai semplificato». È d'accordo con Heller? Yes, I do, unfortunately. On the other hand, sì, sfortunatamente. Ma d'altro canto, in quanto scrittore, ho dei doveri verso il mio editore. L'editore deve cercare di vendere i libri e quindi, anche se non ho piacere a dare interviste, ogni tanto, come atto di buona fede, lo faccio. Every now and again, as an act of good faith, I do it. Ma un'intervista non necessariamente cerca di spiegare il significato del libro, l'inesplicabile. Può trattare altri argomenti, come la poetica dell'autore o la sua vita. I guess it's the problem for writers, at least for me, and I think. Penso che il problema per gli scrittori e per me è che è difficile spiegare il nostro lavoro a chiunque. È difficile rispondere a domande. Perché in realtà tu stesso, in quanto scrittore, creatore del lavoro, non sei molto sicuro di ciò che hai fatto. Siccome io stesso non sono molto sicuro di averlo capito, è difficile spiegarlo a qualcun altro. Non è che non voglia provare, ci provo, ma non sono sicuro che le risposte saranno soddisfacenti. Cosa pensa della critica letteraria? È di qualche utilità? E se sì, quale? Well, it can be, it certainly can be. Sometimes there are texts that are very difficult to understand. Può esserlo. Ogni tanto ci sono testi che sono molto difficili da comprendere, pieni di allusioni e riferimenti che non tutti possono intuire immediatamente. E dunque, in certi casi, la critica letteraria è molto utile. Credo che dobbiamo fare una distinzione tra fare recensioni per giornali e la critica accademica, che per esempio può dedicare a un libro 300 pagine e andare molto nel dettaglio. Le recensioni sono una prima impressione di qualcuno che vuole dire al pubblico cosa pensa di quel libro in termini molto generali. Per questo le recensioni spesso non sono molto interessanti da leggere. Penso che siano utili a questa funzione, dire se il libro è interessante e dare un'idea al lettore se gli potrebbe interessare quel libro. Ma io credo che la critica vera e propria possa invece rispondere molto in profondità a domande psicologiche, storiche. Want to read the book. I think that's the function of reviewing, but criticism is something that can go very, very deep into all kinds of philosophical, psychological, historical questions. Qual è la definizione più corretta che un critico ha dato di lei e qual è quella più scorretta? I don't know. I have to tell you that I stopped reading anything written about me many years ago, so I don't know. I got to a point where I realized that. Non lo so. Devo confessare che ho smesso di leggere quello che scrivevano su di me molto tempo fa. Sono arrivato al punto in cui ho capito che non mi era di alcun aiuto leggere quel che scrivevano su di me. Wasn't helpful to me to read anything anyone was writing about me, and so I stopped doing it. Nei suoi libri ci sono delle idee ricorrenti. Una di queste sono gli oggetti. Da Sunset Park, dove si parla dell'ospedale delle cose rotte, per non parlare del paese delle ultime cose. Perché è così interessato negli oggetti? Well, we're surrounded by things, aren't we? And in a sense, we come alive to the world in the act of perceiving the things that are in the world. Beh, siamo circondati dagli oggetti, non è così? Nel senso che veniamo al mondo nell'atto di percepire le cose che sono nel mondo. Sì, sono molto affascinato dalle cose. E in effetti posso pensare a molti esempi dei miei libri in cui gli oggetti ricoprono un ruolo importante. In Città di Vetro, per esempio, il vecchio pazzo Stillman va in giro per le strade raccogliendo oggetti e cercando di dargli nuovi nomi. Nel romanzo Nel paese delle ultime cose, Anna Blom si definisce una cacciatrice di oggetti nella città devastata. Quindi, in un modo o nell'altro, le cose sono importanti per me. So in one way or another, yes, things are important to me. Un'altra idea ricorrente è il caso e la possibilità. C'è qualche ragione particolare perché si concentra su questo soggetto? I think this might be exaggerated. Yes, these are elements that are in my books, but they're not the predominant force. Penso che questo sia un po' esagerato. Sì, sono elementi che sono nei miei libri, ma non sono la forza predominante che guida l'azione nei miei romanzi. È semplicemente il modo in cui il mondo funziona e sono molto interessato a quella che potremmo chiamare la meccanica della realtà. Perché le cose succedono e come succedono. E spesso le cose che determinano il nostro destino sono fattori accidentali, casuali, piuttosto arbitrari. Cadi dalle scale, ti rompi una gamba e per tutta la vita zoppichi e devi usare il bastone. Non c'è nessuna ragione per cui questo accada. Succede e basta. Ci sono incidenti fortunati e incidenti sfortunati. Io sono sempre interessato nel vedere come queste cose si svolgono. Per esempio, ho appena finito un nuovo libro, dopo Sunset Park. Non è un romanzo, è un libro autobiografico. E una delle tante cose di cui parlo è un momento di 5 anni fa in cui sono caduto nell'oscurità, mentre camminavo in uno strano appartamento di Parigi. Ho battuto la testa contro la porta e sono atterrato sul pavimento a 2 pollici dalla gamba di un tavolo. Se fossi stato 2 pollici più a sinistra, probabilmente avrei sbattuto la testa e probabilmente sarei morto. C'è un uomo che conoscevo e di cui ho scritto nel Red Notebook, questo piccolo libro di storie vere. È la storia dello zio di un mio amico che era in Jugoslavia nella Seconda Guerra Mondiale. Era un partigiano che resisteva ai nazisti. Fu ferito in battaglia e tuttavia è riuscito a sopravvivere e poi dopo la guerra è andato a Chicago ed è diventato un ingegnere. Un giorno, anni dopo, nel mezzo della notte, è inciampato nei mobili, è caduto, ha battuto la testa ed è morto. Lo stesso incidente che poteva accadere a me. Lo trovo affascinante, questo fatto che un uomo possa sfuggire alle pallottole, alla guerra, e poi morire nel più banale degli incidenti. Ma lei crede nel destino o è solo intrigato dal caso, dalla coincidenza? Non è neanche coincidenza, è semplicemente come le cose si realizzano. Non credo nel destino. Credo che le nostre vite siano una progressione di contingenze multiple. E sì, naturalmente noi possiamo prendere delle decisioni, fare delle scelte, cercare di raggiungere degli obiettivi. E se siamo molto determinati, spesso possiamo riuscirci. Ma molto spesso gli eventi interferiscono e l'inaspettato si manifesta costantemente. Per esempio, mi interessa sempre capire come persone che sono sposate si sono incontrate. Perché questa è probabilmente la cosa più importante che uno fa nella vita, sposarsi, avere dei figli che sostengono il mondo e che a loro volta si sposano e hanno figli. E spesso sembra che siano eventi del tutto arbitrari che avvicinano un uomo e una donna. Tu aspetti l'autobus un giorno, è in ritardo, e c'è una donna attraente, anche lei in attesa. Inizi a parlarci, e un anno dopo l'hai sposata, e poi finisci a passare l'intera vita con lei. Se l'autobus non fosse stato in ritardo, tu non l'avresti incontrata, e tutta la tua vita sarebbe stata diversa. Sono queste cose che mi affascinano. Non direi che è il destino, ma gli eventi casuali che accadono nel mondo, e il significato che troviamo in questi eventi. Per esempio, se l'uomo non fosse stato attratto dalla donna, non le avrebbe parlato, ma qualcosa è accaduto e ha tratto vantaggio da un evento casuale che si è presentato sulla strada. E questo era Paul Auster, intervistato da Lara Ricci. L'intervista integrale domani nel domenicale del Sole 24 Ore. Anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.